24 mattino estate con Irene Zerbini. E questo è stato un mese che ci ha portato in giro per il mondo con voci, accenti, percezioni diverse dei corrispondenti in Italia, dove siamo andati: in Colombia, in Svizzera, in Germania, in Svezia, in Messico. Oggi faremo tappa da un'altra parte, tra pochissimo infatti andremo in Kuwait. Ma voglio ricordarvi la tematica anche del dibattito che scatterà alle 8:30. Affronteremo il tema delle adozioni, quelle dei single in alcuni paesi sono possibili e in Italia no. Bisogna non solo essere in coppia, addirittura aver contratto matrimonio per poter essere dichiarati idonei all'adozione. È giusto? È una garanzia di benessere per il bambino questo criterio? Come la pensate? Fatecelo sapere al 349-238-6666 o telefonando all'800-24-00-24. Visti da fuori. L'ultimo degli appuntamenti con i corrispondenti stranieri. E allora buongiorno a Mahdi El Nemr, benvenuto. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori e buongiorno a te. Mahdi, tu sei egiziano, corrispondente però per la Kuwait News Agency, cioè un'agenzia che è una fonte per tutta la galassia delle testate arabe. Dici un po' di più di questa agenzia. Tribolanza, diciamo, però è unica, non abbiamo concorrenza in Kuwait. E tu di cosa ti occupi per questa ANSA del Golfo? Diciamo, segue le vicende italiane di tutto quello che succede in Italia, con naturalmente più attenzione alla politica, all'economia e agli affari bilaterali. Dall'economia alla politica, agli affari bilaterali con i singoli stati arabi, all'arte, al costume, nulla fa eccezione. Lavori, certo. Lavori tutti i giorni? Mandi pezzi tutti i giorni? Giorno, notte, diciamo. A giorno e notte addirittura, Mahdi? Dipende, sì, quando ci sono le notizie, nell'agenzia purtroppo dobbiamo fare anche questo. E quali sono gli ultimi pezzi che hai mandato? Seguiamo, diciamo, dall'Italia le evoluzioni in Libia. Ieri abbiamo avuto il primo ministro del nuovo governo libico a Milano e poi c'è stata una conferenza stampa di Jalloud, il secondo uomo di Gheddafi. Ci sono, diciamo, questi eventi che naturalmente tutto il mondo, specialmente il mondo arabo, lo segue. Segue con grande attenzione, infatti questa segnalazione era abbastanza prevedibile. Ora passo alla domanda di riserva. Quali sono invece pezzi che hai mandato nel corso della tua attività per questa agenzia su alcuni aspetti che forse noi italiani non ci aspetteremmo suscitano interesse nel mondo arabo? Ma ne ho fatti tanti in 20 anni, però... Diciamo, parliamo di moda, di design, naturalmente l'ultimo sulla Ferrari. Kuwait è il paese con il più alto tasso di Ferrari per abitante al mondo. Il gelato italiano è ormai anche in grande espansione. Parliamo della pizza e dello spaghetti, sai che dicano che è di origine araba. Gli arabi qui è caduta la linea, no? Abbiamo un disturbo in regia. No, ma tutti rivendicano la paternità di spaghetti, pizza, è una cosa incredibile. Senti, Mahdi, a parte queste questioni che hai appena nominato, e come hai visto negli anni, hai detto sono 20 anni faccio questo lavoro, cambiare l'immagine dell'Italia nel mondo arabo? Come è percepita e com'era percepita? L'immagine dell'Italia nel nostro mondo, cioè l'Italia è il nostro, diciamo, vicino di casa da sempre e per sempre, quindi è un'immagine positiva, molto positiva in generale. E naturalmente ci sono di aspetti diversi. Positiva perché? Perché ha un passato coloniale percepito come meno pesante? Perché ha a che fare con questo? Diciamo, se parliamo di questi ultimi 50-60 anni, sì, gli arabi non percepiscono l'Italia, anche se pur avuto questa esperienza coloniale triste in Libia, in Somalia, ma non al livello dei paesi tradizionalmente coloniali come la Gran Bretagna, la Francia. Pagine nere anche quelle dell'Italia, però quelle di altri paesi europei sono state peggiori, quindi nel relativismo poi anche dell'immagine, del ricordo, l'Italia... Sì, anche perché il colonialismo italiano è legato più o meno con il fascismo, quindi è qualcosa che lo subiva anche l'Italia. Quindi non si dà responsabilità al popolo italiano per quel che lo si abbina, lo si aggancia, ho capito, a un governo. Dicevi, è cambiata, in che modo? Abbiamo ancora 30 secondi, l'immagine dell'Italia? L'Italia, diciamo, è il paese del bel gusto, dello stile di vita, diciamo, ambito, ma dal punto di vista politico purtroppo è arretra, anche per le posizioni che prende il governo, e questo è ovvio. Comunque in generale una immagine positiva, è importante che la gente separa fra la politica e l'italiano vero, creativo, simpatico, cordiale. Quindi un'arretratezza nella credibilità e una percezione tutto sommato positiva per il resto, soprattutto per quello che viene ribattezzato in tutto il mondo come il lifestyle. Mahdi El Nemer, grazie per questa tua testimonianza. Mahdi El Nemer, l'ultimo dei corrispondenti stranieri che abbiamo incontrato quest'anno, perché si conclude un ciclo e finisce oggi 24 mattino estate, è un egiziano corrispondente però per Kuwait News Agency. Buona giornata. Noi tra poco invece torneremo a parlare di attualità italiana, nel senso che affronteremo il tema delle adozioni e non solo, parleremo anche di doppi stipendi, perché incontreremo anche l'unico che ha deciso che con lo stipendio che percepisce, con il lavoro che svolge, è immorale, l'ha deciso lui, avere una doppia retribuzione. Ci ha rinunciato senza che ne fosse obbligato. Noi andremo a conoscerlo. '24 mattino estate. Beh, abbiamo affidato a John Lennon questa mattina l'incarico di lanciare un appello quasi struggente alla madre che l'ha abbandonato di fatto. You didn't want me. E questa è la situazione drammatica che può sintetizzare molte di quelle vite, anche se poi non si parte spesso da un'intenzione, sono somme di elementi complessi, situazioni che accadono nella vita, ma che portano i nostri istituti in Italia a essere affollati di bambini e ragazzi. Stiamo parlando di case d'accoglienza, stiamo parlando di istituti dove stanno bimbi non solo orfani, come spesso si pensa, ma che sono stati allontanati dalle famiglie per situazioni di disagio, sofferenza, abusi. Ne parleremo nel corso della puntata, perché tra poco affronteremo il tema delle adozioni dei single, nel senso che... Beh, è difficile non cadere nella tentazione di ascoltarlo, ma nel senso che, dicevamo, Cristina Fazzi, una pediatra di Enna, sarà la mamma adottiva di Joseph, un bambino dello Zambia che lei è in affido tra l'altro da 7 anni. Questa vicenda, con un po' di approssimazione mediatica che si usa spesso nel giornalismo italiano, è stata ribattezzata in molti titoli come l'Italia apre ai single. Non è esattamente così, però è uno spunto per parlarne, quasi un plebiscito riguardo alle posizioni, a come vi siete espressi voi ascoltatori fino a questo punto. Diciamo che il 90% dei messaggi che ci sono arrivati dicono è giusto che un single abbia la possibilità di adottare, perché ci sono genitori eccezionali, ci sono bambini che hanno bisogno di tanto affetto, perché lasciarli in istituto se queste persone sono adeguate assolutamente, nel caso vogliano dare amore a un bambino, a un ragazzo, a una una bambina, una giovane donna, perché impedirglielo sulla base di questo stato civile, diciamo così. Come la pensate? 349-238-6666 se volete telefonare, 800-24-00-24. Noi andiamo in Zambia. Buongiorno alla dottoressa Cristina Fazzi. Buongiorno, ci sente? Pronto? Sì, buongiorno, sì, vi sento bene, in maniera molto chiara, grazie. Dottoressa Fazzi, lei è la mamma di Joseph, che salutiamo per interposta persona naturalmente. Grazie. Ma soprattutto è stata al centro di un caso che forse lei non voleva creare. E la sua adozione, no, riconosciuta in Zambia, è stata poi accolta, riconosciuta come tale anche dal Tribunale dei Minori di Caltanissetta, e ha dato adito a un equivoco, cioè tutti single possono adottare. In realtà, sulla base di quali principi le è stata riconosciuta questa genitorialità, Cristina Fazzi? Sì, diciamo innanzitutto questo, che io sono una cittadina italiana, ma risiedo da 12 anni nello Zambia. Sì. Quindi questa è una cosa importantissima, cioè se io fossi stata un'italiana che vive quotidianamente in Italia, non avrei potuto fare domanda di adozione, perché effettivamente i single in Italia non possono farlo. Io vivo però in Zambia e mi è data facoltà, vivendo in Zambia, di poter chiedere di adottare un bambino, perché la legge dello Zambia lo consente anche ai single. Quindi il primo passo che ho fatto è stato quello di chiedere l'adozione di mio figlio in Zambia. Una volta che ho avuto questa adozione, e non mi è stata data in maniera veloce, ho atteso 4 anni in Zambia. In cui lei è stata scrutinata, anni, in cui si è valutata la sua adeguatezza. Le leggi in Zambia in merito ai minori sono molto rigorose. Quindi io sono stata soggetta a incontri, colloqui, sono stata più volte soggetta a visite, perché ho fatto prima un periodo di affido e poi chiaramente dopo l'affido mi è stato dato il permesso di poter chiedere l'adozione del bambino. Quindi il bambino, che sta con me dal 2004, cioè dall'anno della nascita, è stato con me in affido fino al 2008. Cioè 4 anni. Nel 2008, dicembre del 2008, io ho avuto l'adozione in Zambia, adozione che in Zambia è piena e legittimante, in quanto in Zambia i single possono adottare. Dopodiché, e non solo in Zambia, in numerosi paesi. Senta, ma devo farle una domanda. Infatti. Mi scusi, dottoressa Fazzi, lei cosa ci fa nello Zambia? Di cosa si occupa? Allora, io sono un medico. Sono qui da 12 anni, ho fondato un progetto integrato sociosanitario, è un progetto umanitario, quindi ci occupiamo di tante cose. Chiaramente io sono medico, non sono pediatra, scusi se faccio questa precisazione, perché non sono specialista in pediatria, mi occupo però da 12 anni di bambini, quindi praticamente sono nell'ambito della pediatria. Sì, è stata associata anche come specialità clinica alla pediatria, ha fatto bene a precisarlo. Ma perché? Sì, esatto, perché ho avuto qualche osservazione in merito. Mi sembra corretto dire che effettivamente non sono pediatra, da 12 anni però mi occupo di patologia infantile in Zambia. E quindi appunto giustamente, poi vabbè, abbiamo tanti problemi, sapete bene che purtroppo i paesi in via di sviluppo hanno molti problemi, qual è la malnutrizione, qual è l'HIV, l'AIDS, insomma, per intenderci, quindi giustamente, ecco, c'è tanto lavoro e sono qui a cercare di dare una mano, tutto qua. Grazie per questa sua testimonianza. Abbiamo voluto chiarire tutti questi aspetti perché in questi giorni sono circolati proprio sui quotidiani e non solo, anche in televisioni, radio, queste notizie che dicevano: la dottoressa Cristina Fazzi apre le porte con la sua esperienza all'adozione dei single, perché d'ora in poi tutti potranno adottare. Abbiamo sentito i giudici che le hanno riconosciuto questa adozione anche in Italia e ci hanno spiegato che in realtà per casi particolari adozioni di questo tipo sono sempre state fatte in Italia, cioè è stato riconosciuto la patria potestà anche a dei single, nel caso si possa applicare la legge del 4 maggio 83 numero 184. Che cos'è questa legge? Lo chiediamo a Melita Cavallo. Buongiorno dottoressa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Che è la presidente del Tribunale dei Minori di Roma. Stupita per questa adozione riuscita di questa donna non sposata? Lei è stupita? Ma diciamo, sono sorpresa che ci sia stato questo clamore, perché da quando è entrata in vigore la legge, nell'83, la persona singola può adottare in Italia in casi particolari, cioè quando ha già un legame pregresso con un bambino che diviene adottabile per mancanza di cure morali e materiali della sua famiglia. Per quanto riguarda l'adozione all'estero, abbiamo avuto un'apertura, perché tutti noi giudici per i minorenni eravamo perplessi sul fatto che si potesse adottare all'estero in casi particolari. Invece, con una ordinanza interpretativa di rigetto, la Corte Costituzionale nel luglio del 2005 ha detto che il nostro sistema giuridico, la nostra legge 184-83, permette di adottare alla persona singola anche all'estero, previo la idoneità per il caso particolare, però si deve trattare di un caso particolare. Ecco, cosa vuol dire caso particolare? Sì. Innanzitutto, che condizioni? Spiegato in termini possibilmente non tecnici, sì, non giuridici, ma accessibili a tutti. Caso particolare è la situazione di un bambino che ha già un rapporto con la persona che chiede di adottarlo. Un po' come il caso adesso della dottoressa, ma è molto diverso, adesso lo preciserò. E quindi la persona che ha, per esempio, ha avuto un caso ultimo che ho avuto, una domestica per molti anni con il suo bambino in casa, la domestica torna nel suo paese africano, poi purtroppo muore, la donna che l'aveva tenuta al servizio chiede di adottare quel bambino, è un caso particolare perché conosceva quel bambino, si era fatto preadolescente in casa sua, quindi ha ottenuto l'adozione. Caso quindi a lei è capitato, a lei nel suo tribunale, nella sua funzione quotidiana di giudice, è capitato di ricorrere a questa legge? Certo, 180... certo, più volte. Adesso la situazione della dottoressa è un po' diversa e anche a noi, insomma ai tribunali, è capitata questa situazione. Cioè la dottoressa ha prestato servizio nel paese straniero a cui appartiene il bambino. L'adozione le viene data dal paese straniero e chiede il riconoscimento, certo, in Italia. Non ha avuto l'idoneità. Questa è la differenza. Sì, sì. Quando tu chiedi dall'Italia all'Italia di adottare un bambino che è all'estero, perché lo conosci, perché è un bambino che non riesce a trovare una famiglia. Situazione diversa, l'abbiamo spiegata. Lei lavora in Zambia, se fosse stata un'italiana che andava in viaggio era diversa. Ma le devo chiedere, perché gli ascoltatori ci stanno sommergendo di domande in questa direzione proprio, e vi invito a continuare a farlo al 349, questo è il numero degli sms, 238-6666. Devo chiederle, giudice, perché gli istituti sono pieni, gli istituti italiani, di bambini non adottabili? Perché passano la vita in istituto per un'errata difesa dei diritti di sangue? La maggior parte dei bambini che resta in istituto non è abbandonata, ma ha genitori non in grado di riprenderli tempo breve. Ci sono però anche dei bambini che potrebbero essere dati alle famiglie in affidamento o in adozione, ma che non vengono di fatto dati perché sono grandicelli, perché tutti i coniugi o anche le persone singole alle quali io chiedo sempre di farsi avanti per un affido o un'adozione, diciamo, desiderano, pensano di poter accogliere un bambino non al di là degli 8, 9 anni, 7 anni, mentre purtroppo le nostre strutture, case famiglie, sono pieni di bambini più grandi di 7, 8, 9 anni, di preadolescenti. Qualche volta noi riusciamo a collocarli anche bene, ma è molto, ma molto difficile. Per cui bisogna rendersi conto che insomma, l'accoglienza di un bambino è diversa dall'adozione di un bambino. Essi pensano di, magari sotto i 60 anni vengono e chiedono un bambino in adozione o in affido, ma a quell'età non si può che accogliere un preadolescente o un adolescente, ma intanto molto spesso i coniugi o la persona singola non sarebbe neanche in grado di accogliere le difficoltà di accettare la sfida di un preadolescente o di un adolescente che è stato abbandonato dalla sua famiglia ed è rimasto in istituto tanti anni. Ho capito, quindi lei dice le diciamo così cautele che vengono adottate al sistema sono sempre in vista di quello che è il benessere, l'interesse superiore del bambino, perché purtroppo comunque ci sono molti casi, molti casi, ci sono stati raccontati ieri anche da gestori di case d'accoglienza e istituti, in cui la coppia sottovaluta le problematiche che si troverà ad affrontare quando un bambino è stato traumatizzato più volte e di conseguenza ha avuto un contesto, dimostra un contesto di maltrattamenti, di abusi, di abbandono. E noi le chiediamo, le cerchiamo, facciamo appello a coppie che possono accogliere preadolescenti o adolescenti, però diciamo. E avete anche casi quindi di restituzioni, come fossero dei pacchetti postali? Purtroppo ci sono casi di restituzione, una dolorosa esperienza non solo per il bambino ma anche per il giudice che si vede e per ragazzi che hanno già sofferto e molto nella vita. Certo. Per le vostre opinioni, le vostre domande 800 24 00 24, tra pochissimo, ora sulle strade d'Italia a controllare la situazione del traffico di questo venerdì. 24 mattino estate. Aprire dunque i single per le adozioni, vista la richiesta, cioè vista la permanenza negli istituti italiani di tanti bambini che vorrebbero avere una mamma o un papà, insomma una figura adulta di riferimento, sì, no, come la pensate? Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno. Sì, dica. Ascolti, io volevo portare la mia esperienza come genitore in procinto di adottare, sì. Sono d'accordissimo sul discorso di aprire i single, però in Italia, come tutte le cose, dovrebbero, secondo me, ma non per un discorso egoistico, sì, facilitare l'adozione alle coppie formate da madre e padre, in questo caso, perché portando la mia esperienza, io sono 3 anni che sto, tra virgolette, perseguendo il mio sogno d'amore, che sarebbe appunto quello di adottare un bambino, e ho trovato molte difficoltà, molte delusioni, e come diceva il giudice prima. E questo potrebbe anche scoraggiare anche le persone meglio intenzionate. Dopo, quando sei dentro in questo cammino, è chiaro che non molli, però anche sentendo esperienze, grazie a gruppi di mutuo aiuto e via dicendo, è molto più facile adottare all'estero. Però con delle problematiche a livello economico, perché chiaro, all'estero. A lei ha sottolineato 2 aspetti molto importanti. Grazie a Matteo. Buongiorno. Salute. A Marco Griffini, presidente Amici dei Bambini. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, da anni in questo settore, da anni si occupa naturalmente. Poi, tra l'altro, Marco, lei è presidente di questa associazione. Pochi sanno che a sua volta è padre adottivo e nonno, nel senso che anche sua figlia ha adottato, perché poi i comportamenti virtuosi spesso generano emulazione. Dunque Marco, ha sentito cosa ha sottolineato l'ascoltatore sulle difficoltà? Innanzitutto Matteo, l'invito è non mollare assolutamente. In qualche parte del mondo c'è un bambino che aspetta voi, e questo bambino è solo nella sua speranza, quindi voi dovete assecondare questa speranza, mai mollare, ci mancherebbe altro. Avete iniziato questa strada e portatela a termine. Ma lei sarebbe favorevole a che si apra anche ai single? Ma guarda, qui c'è da fare un discorso molto semplice, nel senso, che cos'è adozione, no? Che cos'è adozione oggi? Adozione oggi è un atto di giustizia, cioè è dare ad un bambino quello che gli è stato tolto in maniera così violenta, in maniera così proditoria. Per cui ora si deve domandarsi, questo atto di giustizia può essere fatto solamente da chi è sposato o può essere fatto anche da un single? No, questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. L'altro fatto è che purtroppo in questi ultimi 3-4 anni stiamo assistendo ad un calo delle coppie sposate che si rendono disponibili per l'adozione. Questo è un fatto che ci ha trovato impreparati, cioè dal 2006 praticamente in Italia, ma questo è un dato anche a livello europeo, sono calate proprio le disponibilità. In Italia è impressionante il dato, dalle 6.000 idoneità concesse nel 2006 siamo arrivati alle 4.000 del 2009, ultimo dato disponibile, e purtroppo stiamo aspettando il 2010, pare che sia 3.500, quindi un calo verticale. Dall'altro quasi parte, un 40%, perché? Quali sono gli elementi che hanno provocato? Sarebbe interessante, io più volte ho sollecitato l'amico Giovanardi e la Commissione a così interessarsi a capire quali sono queste cause. Lo stiamo facendo noi, lo faremo noi come ente autorizzati, e faremo una ricerca proprio finanziata da noi autorizzati. Perché? Veniamo agli elementi. Ma potrebbe essere innanzitutto la causa economica, cioè nominata dai nostri ascoltatori. È una follia, cioè spendere 20.000, 25.000 euro per adottare un bambino è una follia. Cioè, e come si possono tagliare questi costi? Ma con la gratuità dell'adozione internazionale. Noi sono più anni che lo stiamo sostenendo, partiremo adesso con la battaglia d'autunno, l'autunno caldo, tutti quanti insieme, e arriveremo a chiedere queste gratuità, non come in passato sbagliando dove chiedevamo dei contributi da parte dello Stato, no, risparmiando sulle spese, per esempio tagliando l'idoneità dell'adozione internazionale rilasciata dai tribunali dei minorenni. L'Italia è rimasto l'unico paese al mondo che rilascia queste idoneità da parte dei tribunali. Pensate le spese che si possono risparmiare togliendo queste idoneità, diminuendo per esempio il percorso. Se noi conosciamo di coppie che per ottenere idoneità addirittura sostengono 15 colloqui dall'equipe psicosociale del territorio, una cosa assurda, ma ne bastano due, ne bastano tre, ma ci mancherebbe altre. Togliendo per esempio alcune anomalie presenti nella legge, come per esempio la delibazione, questo è un discorso tecnico, però che costa, la delibazione da parte del Tribunale dei minorenni italiani sulla sentenza del Tribunale straniero. Cioè c'è tutta comunque, una procedura per cui... sono tutte procedure, semplificazioni che lei non ha né inventato. Anche, se vogliamo anche al contributo di solidarietà, ridicolo, però un euro per esempio per i pasti dei senatori e dei parlamentari, ecco. Cioè, facendo tutto un discorso molto serio, partendo dal fatto che l'adozione è un atto di giustizia. E poi, come ha detto lei Griffini, l'Italia è l'ultimo paese al mondo che, in cui rimangono in vigore certe pratiche, sì, e certe lungaggini, per cui mandiamoli all'estero, insomma, anche sti parlamentari, coloro che devono legiferare, si guardi, si confronti, non c'è nulla da inventare. L'adozione ai single, per esempio, è utilizzata in moltissimi paesi, si studi se ha funzionato, che benessere ha portato ai bambini cresciuti da un solo genitore, in base a quello si decida. Non vedo perché devono rimanere questi retaggi tipici di una società forse antica di una volta, ma che nel frattempo è evoluta, mentre bambini aspettano di avere amore e figure di riferimento. Sono discorsi molto complessi, importanti, e ringrazio tutti quelli che hanno portato il loro contributo a questa discussione che merita altri approfondimenti. Grazie naturalmente a Cristina Fazzi, la mamma che con la sua esperienza ha dato occasione di aprire questo dibattito, a Marco Griffini, Melita Cavallo, e tra poco andremo a incontrare qualcuno che oggi vogliamo presentarvi. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Beh, l'ultima puntata anche per me è sulle note di una canzone dei Monty Python che ci invita a guardare il lato luminoso della vita in senso ironico. Il coro che sentite infatti è di persone appese alla croce al termine di un celebre film. E nel mandare l'abbraccio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno seguito, vorrei ricordare che in questo agosto, così, tutto il discorso è stato caratterizzato ancora una volta dai privilegi della casta in quest'Italia che fa arrabbiare. Sono moltissimi gli stimoli che arrivano anche da voi ogni giorno. Ebbene, questi privilegi della casta, intoccabili, inerodibili in qualche modo, sono emersi nella loro ingiustizia ancora di più con questa manovra lacrime e sangue, come è stata definita. Noi allora oggi, per salutarci, vorremmo presentarvi una persona. Buongiorno, benvenuto al commissario dell'AGCOM, Nicola D'Angelo. Buongiorno. Nicola D'Angelo è balzato sui giornali grazie a un'inchiesta di Milena Gabanelli che si è chiesta: ma perché i super dirigenti statali devono essere sempre pagati con un doppio stipendio quando non lavorano per un'amministrazione ma lavorano per un'altra e mantengono non solo il posto ma anche lo stipendio? Poi tra l'altro si parla di cifre molto importanti, e lei cita con la sua solita ricerca e accuratezza tutti coloro che percepiscono 400.000 e più euro per la carica che ricoprono all'antitrust, per esempio, però contemporaneamente sono magistrati e così via, sono almeno 300 i magistrati. E poi c'è un'unica eccezione, c'è Nicola D'Angelo che ha deciso da solo di rinunciare all'assegno. Quanto più o meno quell'assegno che lei non percepirà, Nicola D'Angelo? Lo stipendio che prendevo, che avrei dovuto prendere anche se ricoprivo l'incarico, che era di 7.000 euro netti al mese. Perché? Immagino ci avrà pensato, non so se una notte intera. Certo. Come lei può pensare, non è che poi provengo da una famiglia, come dire, particolarmente agiata, per cui ci ho pensato e poi mi è sembrato una cosa giusta da fare. Tra l'altro lo stipendio che prendevo per l'incarico era già da sé più che sufficiente. E anzi, cioè, l'indennità che lei riceve a capo dell'Agicom dice non ci fa strappare le vesti, nel senso. No, assolutamente. Tra l'altro, rispetto a quello che avviene per tutti gli altri cittadini, per il cittadino comune che deve fare i conti con famiglia e magari con uno stipendio di... Allora, lei riceve... supera i 1000 euro al mese, insomma, non mi pare uno stipendio... Esatto, lei riceve uno stipendio ottimo. Se sì, sono accurata, me lo dica, circa 440.000... Un po' meno, perché quei dati lì sono i dati che si riferiscono al Presidente dell'Autorità. Io sono un commissario e io prendo intorno ai 380.000 euro lordi. Certo, benissimo. E molti diranno, critica facile, vabbè, rinunciare allo stipendio in queste condizioni. Intanto sì. Però lei è l'unico che l'ha fatto e mi sembrava importante segnalarlo. Sì, grazie. Ma cos'è che l'ha convinta? Cioè, qual è l'elemento che l'ha fatto scattare? L'elemento è stato questo, perché intanto, va bene, insomma, mi sembrava ingiusto che se uno non lavora non si capisce per quale motivo, anche se la legge questo prevede. E difatti io quando ci ho rinunciato non è stata una cosa facile, ho avuto problemi, non è che ho avuto una strada aperta per questa rinuncia, ho dovuto anzi impostare una certa interpretazione giuridica per poi poter superare la norma che invece obbligava a percepire questo stipendio, e sono dovuto passare in aspettativa anche con un pregiudizio sulla mia previdenza. Insomma, io beh, abbastanza, guardi, cioè, raccontato così è abbastanza paradossale. Infatti fa tenerezza dei suoi colleghi che hanno detto, quando hanno saputo della sua scelta, ma noi veramente non sapevamo che si potesse rinunciare allo stipendio. Paradossi di questa realtà che supera la fantasia. Intanto grazie a Nicola D'Angelo, speriamo serva ad esempio anche ad altri super dipendenti statali che continuano con la pratica delle doppie retribuzioni. Buona giornata. Grazie a lei. Grazie a lei, buon agosto a tutti voi o a quel che resta di questo mese agostano. Da Irene Zerbini naturalmente l'augurio è di ritrovarci in futuro, magari l'estate prossima, e salutiamo Alessandro Marco Tulli e Alessandro Longoni, coautori di questa trasmissione, Peter Bescapè magistralmente in regia, si è speso in ottimi spunti musicali per tutta l'estate. Da lunedì mattina ritorna Bianco Nero con Alessandro Milan alle 7:15. Un caro saluto a voi da Irene Zerbini.